Siccome un lacchè al servizio di Madame de Guermantes chiacchierava spesso con Françoise, sentì nominare alcuni dei salotti frequentati dalla duchessa, ma non riuscivo a raffigurarmeli. Se erano una parte della sua vita, di quella sua vita che io vedevo solo attraverso il suo nome, come avrebbero potuto non essere inconcepibili? «Stasera c'è un grande spettacolo di ombre cinesi dalla principessa di Parma», annunciava il lacchè. «Noi però non ci andremo perché alle 5 la signora prende il treno di Chantilly per andare a passare un paio di giorni dal duca d'Aumale, ma ci va con la cameriera e il cameriere. Io resto qui. Non sarà certo contenta la principessa di Parma. Ha scritto più di 4 volte alla signora duchessa». «Ma allora al castello di Guermantes non ci andate quest'anno?» «Sarà la prima volta che non ci andiamo. Per via dei reumatismi del signor duca, il dottore ha proibito di tornarci prima che ci abbiano messo un calorifero. Ma prima, tutti gli anni, ci si stava fino a gennaio. Se il calorifero non è pronto, forse la signora andrà qualche giorno a Cannes dalla duchessa di Guise, ma è tutto ancora da decidere». «E a teatro ci andate?» «Ogni settimana. Qualche volta andiamo all'opera, qualche volta alle serate in abbonamento della principessa di Parma. Sembra che sia molto chic quello che fanno. Commedie, opera, tutto quanto. La signora duchessa non ha voluto abbonarsi, ma ci andiamo lo stesso. Una volta nel palco di un'amica della signora, una volta in un altro, spesso nella barcaccia della principessa di Guermantes, la moglie del cugino del signor duca. È la sorella del duca di Baviera». «E così ve ne tornate su a casa», concludeva il lacchè, il quale, pur identificandosi con i Guermantes, aveva dei padroni in genere, un'idea politica, che gli consentiva di trattare Françoise col medesimo rispetto che se fosse stata al servizio di una duchessa. «Vi vedo in buona salute, signora». «Ah, se non fosse per queste maledette gambe! In pianura ancora va bene». In pianura voleva dire nel cortile, nelle strade dove a Françoise non dispiaceva passeggiare, insomma sul terreno pianeggiante. «Il guaio sono quelle scale del diavolo. Arrivederci, signore. Può darsi che stasera ci si riveda». Il suo desiderio di riprendere a chiacchierare con il lacchè era acuito dalla rivelazione, di cui gli era debitrice, che i figli dei duchi portano spesso, sino alla morte del padre, un titolo principesco. Il culto della nobiltà, mischiato e conciliato con un certo spirito di rivolta nei suoi confronti, deve essere davvero forte nel popolo di Francia, sulle cui glebe è impresso come un carattere ereditario. Prova ne sia che Françoise, alla quale si poteva parlare del genio di Napoleone o della telegrafia senza fili, senza risvegliare la sua attenzione e senza farle rallentare per un solo istante movimenti con cui toglieva la cenere dal camino o apparecchiava la tavola, non appena veniva a conoscenza di questi dettagli o scopriva che il figlio cadetto del duca di Guermantes era comunemente designato come principe d'Oléron, esclamava «Che bello!» e cadeva in estasi come davanti a una vetrata. Françoise fu inoltre informata dal cameriere del principe d'Agrigento, entrato in relazione con lei, venendo di frequente a recapitare lettere alla duchessa, che in società, l'aveva sentito lui stesso, si faceva un gran parlare del matrimonio del marchese di Saint-Loup con Mademoiselle d'Ambresac e che la cosa era ormai praticamente decisa. Quelle ville, quella barcaccia, nelle quali Madame de Guermantes travasava la propria vita, mi apparivano, non meno dei suoi appartamenti, come luoghi fiabeschi. I nomi di Parma, di Guermantes Baviera, di Guise rendevano inconfondibili le località di villeggiatura frequentate dalla duchessa, le feste quotidiane che la scia della sua carrozza collegava al suo palazzo. Mi dicevano quei nomi che in tali villeggiature, in tali feste, nel loro succedersi, consisteva la vita di Madame de Guermantes, ma non mi fornivano alcun chiarimento intorno alla sua persona. Ciascuna di esse conferiva alla vita della duchessa una diversa connotazione, ma non faceva che sostituire mistero a mistero senza che nulla evaporasse del primo, che si limitava a spostarsi, protetto da una paratia, racchiuso dentro un vaso, in mezzo ai flutti della vita comune. La duchessa poteva, durante il carnevale, far colazione di fronte al Mediterraneo, ma nella villa di Madame de Guise, dove la sovrana della società parigina, nel suo vestito di piqué bianco, fra tante principesse, non era più che un'invitata come le altre, e proprio per questo, ai miei occhi, ancora più commovente, più se stessa in un suo continuo rinnovarsi, simile a quello d'una stella della danza che, nella fantasia di un passo, subentra via via ciascuna delle ballerine sorelle. Poteva assistere a uno spettacolo di ombre cinesi, ma dalla principessa di Parma sentire l'opera o la tragedia, ma nella barcaccia della principessa di Guermantes. Poiché nel corpo di una persona noi situiamo tutte le possibilità della sua vita, il ricordo dei conoscenti che ha appena lasciato, che sta per raggiungere, quando, avvertito da Françoise che Madame de Guermantes sarebbe andata a piedi dalla principessa di Parma dove era attesa a colazione, la vedevo scendere dalle sue stanze verso mezzogiorno in un abito di raso il cui carnicino aveva la stessa sfumatura, come di nuvola al tramonto, del suo viso, erano tutti i piaceri del Faubourg Saint-Germain che io vedevo racchiusi dinanzi a me in così esiguo volume, come dentro una conchiglia, fra quelle valve ghiacciate di madreperla rosa. Mio padre aveva al ministero un amico, certo Age Moreau, il quale, per distinguersi dagli altri Moreau, aveva cura di far sempre precedere il proprio nome da quelle due iniziali, così che per brevità lo si chiamava Age. Ora, questo Age venne non so come in possesso d'un biglietto per una serata di gala all'opera. Lo diede a mio padre, dal quale la nonna ottenne, giacché la Perma, che io non avevo più vista recitare dopo quella prima delusione, doveva interpretarvi un atto di Phèdre, che lo passasse a me. A dire il vero, non attribuivo alcuna importanza a questa possibilità di sentire la Perma dopo tutta l'agitazione che mi aveva causata alcuni anni prima. Non fu senza malinconia che constatai in me tanta indifferenza per qualcosa a cui un tempo avevo sacrificato la salute ed il riposo. Non che il mio desiderio di poter contemplare da vicino le preziose molecole di realtà intraviste con l'immaginazione fosse meno appassionato da allora. Ma l'immaginazione non le situava più, ora, nello stile di una grande attrice. A partire dalle mie visite a Elstir, era su certi arazzi, su certi quadri moderni che avevo trasferito la fede interiore nutrita un tempo per la recitazione, per l'arte tragica della Perma. Dal momento che la mia fede, il mio desiderio non tributavano più alla dizione e ai gesti della Perma un culto incessante, il doppio di essi che io serbavo nel cuore era poco a poco deperito, come quei doppi dei trapassati dell'antico Egitto che bisognava nutrire di continuo per mantenerli in vita. L'arte della Perma era diventata gracile e pietosa. Non era più abitata da un'anima profonda. Mentre, approfittando del biglietto avuto da mio padre, salivo lo scalone dell'opera, scorsi davanti a me un uomo che di primo acchitto dal portamento mi parve il signor di Charlus. Poi, quando girò la testa per chiedere qualcosa a un addetto, vidi che mi ero ingannato, ma non esitai a situare lo sconosciuto nello stesso rango sociale, alla luce non solo dell'abbigliamento, ma anche dei modi con cui si rivolgeva al controllore e alle maschere che lo facevano aspettare. Infatti, al di là delle caratteristiche individuali, a quell'epoca c'era ancora una differenza molto netta fra i ricchi belimbusti di quella parte dell'aristocrazia e i ricchi belimbusti appartenenti al mondo della finanza o della grande industria. Là dove uno di costoro avrebbe creduto di affermare la propria eleganza ostentando un tono perentorio altero nei confronti di un inferiore, il gran signore, dolce e sorridente, aveva l'aria di considerare e di praticare l'affettazione dell'umiltà e della pazienza, la finzione di essere uno spettatore qualunque, come un privilegio della propria educazione. È probabile che, a vederlo dissimulare così, sotto un sorriso pieno di bonomia, la soglia invalicabile del piccolo universo speciale che egli portava dentro di sé, più di un ricco figlio di banchiere che fosse entrato in quel momento a teatro, avrebbe preso quel gran signore per una persona di poco conto, se non avesse colto in lui una stupefacente somiglianza con il ritratto, riprodotto di recente sui giornali illustrati, di un nipote dell'imperatore d'Austria, il principe di Sassonia, che in quel periodo si trovava a Parigi. Lo sapevo grande amico dei Guermant. Arrivando a mia volta nei pressi del controllore, sentì che il principe di Sassonia, o presunto tale, spiegava sorridendo: «Il numero del palco non lo conosco. Sua cugina m'ha detto che bastava chiedere del suo palco». Forse era il principe di Sassonia. Forse era la duchessa di Guermant, da me sorpresa in tal caso a vivere nella barcaccia di sua cugina uno dei momenti della sua vita inimmaginabile, che egli vedeva con gli occhi della mente quando diceva «Sua cugina m'ha detto che bastava chiedere del suo palco», in modo tale che quello sguardo sorridente particolare e quelle semplicissime parole mi accarezzavano il cuore, ben più di qualsiasi astratta fantasticheria, con le antenne alterne d'una felicità possibile e d'un incerto prestigio. Quantomeno, dicendo quella frase al controllore, egli scavava in una banale serata della mia vita quotidiana un'eventuale galleria verso un mondo nuovo. Il corridoio che gli venne indicato dopo che fu pronunciata la parola «barcaccia» e lungo il quale egli si incamminò, era umido e screpolato e sembrava conducesse a qualche grotta marina, al reame mitologico delle ninfe acquatiche. Davanti a me c'era solo un signore in abito da sera che si stava allontanando. Ma accanto a lui io proiettavo, come con un riflettore maldestro che non riuscissi a orientare esattamente, l'idea che fosse il principe di Sassonia e andasse a raggiungere la duchessa di Guermant. E benché fosse solo, questa idea esterna alla sua figura, impalpabile, immensa e sussultante come una proiezione, sembrava precederlo e guidarlo, simile a quella divinità, invisibile al resto degli umani, che stava accanto ai guerrieri greci. Raggiunsi il mio posto, cercando di ricostruire un verso di Fedre che non ricordavo esattamente. Così come me lo recitavo, non aveva il giusto numero di sillabe, ma poiché non mi preoccupai di contarle, fra il suo squilibrio e un verso classico, mi sembrava che non esistesse alcuna misura comune. Non mi sarei stupito se si fossero dovute togliere più di 6 sillabe a quella frase mostruosa per farne un verso di 12. Ma d'improvviso mi ritornò alla memoria. Le irriducibili asperità di un mondo inumano scomparvero per magia. Le sillabe del verso vennero subitamente a colmare la misura di un alessandrino, quel che c'era di esuberante fuggì via con l'agilità e la leggerezza di una bolla d'aria che scoppia sulla superficie dell'acqua. E in effetti l'enormità contro la quale avevo lottato non era che una singola sillaba. Un certo numero di poltrone in platea erano state messe in vendita al botteghino e acquistate da snob o da curiosi spinti dal desiderio di contemplare persone che altrimenti non avrebbero mai potuto vedere da vicino. E in realtà era proprio un po' della loro autentica vita mondana, di solito nascosta, che sarebbe divenuta oggetto di pubblica osservazione, giacché la principessa di Parma aveva distribuito personalmente fra i suoi amici i palchi, le balconate e le barcacce, trasformando il teatro in una sorta di salotto dove tutti cambiavano posto per andare a sedersi qua e là accanto a un'amica. Vicino a me c'era della gente volgare che, mentre non conosceva affatto gli abbonati, voleva mostrarsi in grado di riconoscerli e li nominava ad alta voce. A sentir loro, gli abbonati venivano a teatro come in uno dei loro salotti, senza prestare quindi la minima attenzione allo spettacolo. Ma era vero il contrario. Uno studente geniale che si sia procurato una poltrona per sentire la Berma non pensa ad altro che a non sporcarsi i guanti, a non disturbare, a ingraziarsi il vicino che la sorte gli ha assegnato, a inseguire con un sorriso intermittente lo sguardo fugace, a sfuggire con scortesia lo sguardo insistente di una vecchia conoscenza che è intravista in sala e che, dopo mille perplessità, si decide ad andare a salutare proprio nel momento in cui i tre colpi, echeggiando prima che l'abbia raggiunta, lo mettono in fuga, come gli ebrei nel Mar Rosso, tra i flutti procellosi di spettatori e spettatrici che ha costretto ad alzarsi e ai quali strappa gli strascichi o calpesta le scarpe. I personaggi del gran mondo, invece, proprio perché se ne stavano nei loro palchi, dietro la balconata terrazza, come in salottini sospesi, cui fosse stata tolta una parete, o in certi piccoli caffè dove si va a prendere una bavarese senza lasciarsi intimidire dagli specchi incorniciati d'oro e dalle sedie rosse dei locali alla napoletana, proprio perché posavano una mano indifferente sui fusti dorati delle colonne che sostenevano quel tempio della lirica, proprio perché rimanevano impassibili di fronte agli onori eccessivi che sembravano render loro, tendendo palme e rami d'alloro, le due figure scolpite sotto i palchi, erano i soli che avrebbero avuto il cervello sgombro per seguire lo spettacolo, se solo avessero avuto un po' di cervello.